guardi non guardo, visto il vuoto e non parlo. Penso se era abitudine o se hai bisogno anche tu di me. Dirsi che va bene quando va tutto male. Se fosse uno sport sarei il campione mondiale. Un secondo riparto, sono un treno in ritardo. E so che non è facile cancellare un'immagine, come per quei ricordi che non vuoi ricordare. E noi non ci prendiamo ma ci prendiamo male. Una come te, come me, come se potessi veramente darti quello che vuoi. Ti scriverei ma poi so che alla fine ti annoi. E tu muori di noia, io muoio di noi, di noi. Stasera se ritorno da te, ti sento e mi si stringe il cuore. Io ti tenevo un posto per te, mi lasci e non mi lasci stare. Sai che non mi va di andare via e dirti ciao, allora ciao. Stasera se ritorno da te, ti sento e mi si stringe il cuore. Cuore, cuore, cuore, cuore, cuore, cuore, cuore, cuore, cuore. Pensavo al nostro futuro come se ne avessimo uno. In fondo al nostro per sempre è durato meno di niente. Magari a te va bene così. Una come te, come me, come se potessi almeno chiederti stasera che fai. Ma non ti scrivo tanto, già so che dormirai. Ritorna al karma ma tu non ritorni mai, mai. Stasera se ritorno da te, ti stringo e mi si spinge il cuore. Io che tenevo un posto per te, mi lasci e non mi lasci stare. Sai che non mi va di andare via e dirti ciao, allora ciao. Stasera se ritorno da te, ti stringo e mi si stringe il cuore. Fino a perdere senso, perdere tempo, perdere senso del tempo. Ora che il vuoto che hai lasciato dentro anche peggio di quello lasciato nel letto. Ma se mi chiami tu dammi un momento anche meno. Sai che arriverai in tempo zero. Se chiedi la luna la stacco dal cielo, ma non c'è più tempo. Zero. Stasera se ritorno da te, ti stringo e mi si stringe il cuore. Io che tenevo un posto per te, mi lasci e non mi lasci stare. Sai che non mi va di andare via e dirti ciao, allora ciao. Stasera se ritorno da te, ti stringo e mi si stringe il cuore. Cuore, cuore, cuore, cuore, cuore, cuore, cuore, cuore, cuore. Cuore. Cuore.